Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e otto minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, puntata in cui tratteremo come sempre la cronaca della giornata economico-finanziaria, che oggi si chiama Rapporto annuale del Censis sul paese. È un rapporto che noi seguiamo, come tantissimi altri osservatori, con molta attenzione, perché è un rapporto non così statistico come quello dell'Istat, che sono numeri, cifre, percentuali, raffronti. È un rapporto, se mi passate il termine, anche più qualitativo, più sociologico, che cerca di capire ogni anno dove va l'Italia. Ricordate, l'anno scorso si intitolò L'Italia in marcia verso una seconda metamorfosi, immaginando che appunto la crisi, che già era pesante l'anno scorso, avrebbe portato anche, sarebbe stata una crisi in qualche modo anche creativa, avrebbe cambiato il paese, avrebbe posto il paese di fronte alla necessità di cambiare alcune cose che non funzionavano. Quest'anno il Censis si rende conto che, pur avendo retto in maniera tutto sommato positiva la crisi, il paese vive in apnea, cioè non si è affermato il modello di una metamorfosi, di un cambiamento. Ci siamo un po' ripiegati sul modello che conosciamo bene, il paesone italiano, però questo porta un po' di apatia, un po' di stanchezza e un po' di apnea, per cui si aspetta che finisca questa crisi, ma non si può restare in apnea per sempre. Vi arriveremo più avanti, dedicheremo infatti la seconda ora del programma proprio al rapporto del Censis, anche perché emerge un paese in cui la dimensione collettiva continua a indebolirsi, ognuno risponde per sé, ognuno reagisce individualmente. Questo si spiega anche con i dati che il Censis cita sulla dichiarazione dei redditi. Io non voglio polemizzare subito in apertura, però il Censis nota che una famiglia su tre arriva a stento a fine mese, ma allo stesso tempo sono solo il 2% gli italiani che dichiarano di guadagnare più di 70.000 euro lordi l'anno, il 2%, e la metà dichiara di guadagnare meno di 15.000 euro lordi l'anno. Chiaramente, se fossero vere queste cifre, saremmo di fronte a un paese in via di sviluppo, non alla sesta o settima economia al mondo. Ancora nota come sono aumentate le evasioni di IVA e di imponibile IRPEF, per cui un paese in cui ognuno se la gioca da solo, non capendo che però la dimensione collettiva, oltre che essere una dimensione etica, è anche una dimensione competitiva. Assieme si compete meglio, si è più forti. Comunque, ne parleremo appunto dalle 18 in poi. Apriremo il programma con un tema che più volte ci avete sollecitato: i manager. Ci siamo in questi mesi occupati di varie categorie professionali, di alcuni ordini professionali, notai, avvocati, architetti, che a nostro avviso hanno compiuto un'operazione, pur se in diversa misura, a riccio, cioè di arroccamento, delle banche, del rapporto tra le banche e imprese, della necessità per gli imprenditori di anche aumentare patrimonializzazione e rispondere alla crisi in un certo modo, del pubblico impiego, delle sue inefficienze. Oggi è la volta dei manager, senza nessuna accusa, però a noi sembra che poche volte i manager paghino quando le aziende, quando vengono distrutte, viene distrutto valore nelle imprese che loro dirigono, mentre un imprenditore quando rischia, rischia di suo, anche la partita IVA quando rischia, rischia di suo. Il lavoratore dipendente non rischia del suo, ma guadagna anche obiettivamente molto poco. I manager guadagnano cifre molto alte rischiando molto poco. Questa è la provocazione e ne parleremo tra qualche minuto. I mercati finanziari bene intonati oggi, 1,5% Milano e anche Parigi, il Francoforte più 0,90, Londra più 0,6, l'America più 0,9% sul Dow Jones. Partiamo allora subito con le notizie in breve. Chiaramente ho dimenticato il numero per i vostri sms, è 349-238-6666. L'oro in calo a $1,203 l'oncia, il petrolio anch'esso in calo a $76 a New York. La Bank of America ha effettuato, restiamo sui mercati, un aumento di capitale da quasi $20 miliardi, cioè ha chiesto soldi sul mercato e agli azionisti per quasi $20 miliardi, collocando sul mercato titoli al prezzo di $15. È la vendita più grande di azioni privilegiate dal 2000 da parte di una società quotata in borsa in America. E questi quasi 20 miliardi di dollari, 19 miliardi, serviranno alla Bank of America per restituire al governo americano i fondi TARP, no? Quei fondi che il governo ha concesso a tutte le banche e istituti finanziari che erano in difficoltà. Royal Bank of Scotland invece è un caso diverso, una delle principali banche britanniche, praticamente nazionalizzata. Il governo britannico ha dovuto comprare l'80% di questa banca per salvarla ed è costata ai contribuenti inglesi questa operazione 50 miliardi di sterline, cioè 55 miliardi di euro, non robetta. La Royal Bank of Scotland ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con 1.800 milioni di sterline di perdita, cioè perde 2 miliardi di euro a trimestre. Ciò nonostante, e questa è bellissima, i dirigenti minacciano le dimissioni se non gli verranno dati i bonus 2009. Io non capisco una banca fallita, nazionalizzata, che perde 2 miliardi di euro al trimestre, in base a quale principio i manager della banca chiedono il bonus del 2009, che vorrebbe dire in sostanza 2 miliardi di sterline, cioè più di quanto perde a trimestre, da distribuire ai vari manager. Il governo britannico ha posto però il suo veto. Ci occuperemo in questa puntata anche dell'offerta che è arrivata da parte di Kraft, colosso mondiale del settore alimentare, su Cadbury. Ha messo sul piano, praticamente sul tavolo, scusatemi, 10 miliardi di sterline, 12 miliardi di euro per comprarsi la Cadbury, che è l'unica offerta presente sul tavolo, visto che l'azienda non viaggia in ottime acque. C'era l'ipotesi di un'offerta alternativa da avanzare da parte di Ferrero e Hershey, ma non si hanno ancora notizie su questo. Dato americano sulla disoccupazione. Allora, è molto atteso oggi dai mercati, è calata al 10%, per cui c'è un miglioramento della disoccupazione. Certo, sono stati persi altri 11.000 posti di lavoro a novembre, però 11.000 contro i 125.000 previsti è un bel dato, nonostante la gravità. E quindi, con il dato di novembre, l'economia americana ha perso il minor numero di posti di lavoro da quando è iniziata la recessione e la crisi. E appunto è sceso al 10% contro il 10,2% rispetto a ottobre. Ripeto, il dato, nonostante le difficoltà, è un dato buono, migliore di ogni attesa degli analisti. E tant'è che il presidente Barack Obama si è subito detto soddisfatto per gli ultimi dati sull'occupazione americana. Veniamo all'Italia, al di là del rapporto Censis, vedo già molti messaggi al 349-238-6666, ne parleremo nella seconda ora. Ripeto, dalla metamorfosi possibile ipotizzata l'anno scorso, quest'anno un paese che vive in apnea, un paese, una società di replicanti, dice il Censis, ricordando un termine di un film che, se non ricordo male, è Blade Runner. Andiamo avanti con le notizie. INPS, il dato dell'INPS di oggi mostra un calo della cassa integrazione ordinaria, meno 10%, ma un netto aumento della cassa integrazione straordinaria, più 34%. La somma delle ore autorizzate tra cassa integrazione ordinaria e cassa integrazione straordinaria è uguale alla fine a quella di ottobre. Sono molto aumentate invece le ore di cassa integrazione in deroga, quelle che vengono concesse a piccole imprese, imprese artigiane, commercianti, cioè in deroga per questo motivo. Ebbene, lì a dimostrazione che la crisi sta mordendo più i piccoli dei grandi. La vera differenza è appunto questa, sono 4 milioni di ore in più rispetto a ottobre, praticamente il 21% di ore di cassa integrazione in più rispetto a ottobre per tutti i soggetti più piccoli. E poi è arrivato il rapporto di Unicredito, che oggi, nel presentare il rapporto sul mondo delle piccole e medie imprese, l'indagine sulle piccole e medie imprese, 6.000 piccoli imprenditori intervistati, ha detto: attenzione, l'impatto della crisi economica sulle piccole e medie imprese deve ancora manifestarsi del tutto. Io qua starei per far partire un gufo, ma dai, è venerdì, c'è il ponte, lasciamo stare. E gli imprenditori esprimono ancora una forte preoccupazione legata alla continuità nell'erogazione del credito alle imprese, cioè tradotto vuol dire che gli imprenditori, soprattutto i piccoli, lamentano ancora che le banche tengono i rubinetti o chiusi o abbastanza stretti. Sentiamo il vice amministratore delegato del gruppo Unicredito, Roberto Nicastro, al microfono della nostra Chiara Di Michele. La cosa che è emersa è che sostanzialmente noi abbiamo avuto un indicatore di fiducia che è ai livelli più alti degli ultimi 5 anni, che è stato abbastanza inatteso come dato, e ci dice che c'è una gran voglia di ripartire, e questa è una cosa estremamente positiva. Da parte di tutti indistintamente? Guardi, no, non è una cosa indistinta. Paradossalmente il Mezzogiorno starebbe un po' meglio del Nord, anche questo è un po', per certi punti di vista, è controintuitivo, anche se forse c'è dietro il fatto che questa crisi, che è nata sui mercati internazionali, ha paradossalmente inizialmente penalizzato le parti più competitive del paese, penso al Nord-Est ad esempio. Il tema è che in linea di massima il nostro paese tende sempre ad andare benissimo sulle cose in cui si esprime il talento individuale. In realtà la crisi ci dice che effettivamente è arrivato il momento di lavorare meglio in squadra. C'è una squadra fatta di imprese, banche, istituzioni, questa squadra può e deve lavorare meglio. Beh, devo dire che anche il vice amministratore legato del gruppo Unicredit, Roberto Nicastro, la vede come il Censis. C'è un filo rosso oggi tra l'inizio del programma e la seconda ora. La necessità che il paese si senta veramente paese, non somma di individui che pensano ognuno sostanzialmente ai fatti suoi. Mi fate notare al 349-238-6666 che non ho dato i titoli di borsa, va bene, avete ragione, come quasi sempre. Campari meno 2%, Pirelli meno 1,7% e Prismia meno 1,3%, Tenaris meno 1,1%, i titoli che perdono di più. Autogrill più 3%. Invece il migliore tra quelle maggiore capitalizzazione, poi Intesa San Paolo più 2,6, Generali più 2,3, Unicredit più 2,1, Popolare Milano anch'essa più 2%, come Ubibanca, Luxottica più 1,80, Enel più 1,6 come Impregilo, e un punto e mezzo lo guadagnano anche ST, Microelectronics, Atlantia e Fiat, Eni più 1% come Banco Popolare e Italcementi. Ultima notizia in breve, poi passiamo al tema dei manager. È una casta anche quella oppure no? Problemi sulle Fiat 500, praticamente, sulla Grande Punto, scusatemi. Circa 500.000 vetture Fiat Grande Punto sono state richiamate per controlli al piantone dello sterzo, che potrebbe presentare difetti strutturali. La Fiat ha invitato i proprietari delle vetture a presentarsi alla rete di assistenza. Diamo anche l'informazione perché comunque è utile. Le macchine da richiamare vanno, il modello Fiat Grande Punto, dal numero di matricola 24.267 al numero di matricola 412.774, e dal numero, e qui sono dolori, ve lo leggo per esteso, 111.2419 al numero di matricola 139.2261. E di più non possiamo dire. Passiamo al tema, si è molto discusso dei fannulloni che lavorano nel pubblico impiego, le partite IVA che sono evasori, e gli ordini professionali che sono ordini corporativi arroccati nella tutela dei loro interessi. Tutto questo è vero, ne abbiamo parlato. C'è anche una categoria che spesso non viene toccata, ma insomma, perché no? E mi riferisco ai manager. Nessuna criminalizzazione, ci mancherebbe, sono 180.000 i dirigenti industriali in servizio o in pensione rappresentati da Federmanager. In realtà si calcola che 84.000 siano i dirigenti, quindi manager in servizio, 93% uomini, solo 5.500 donne, con una retribuzione media in Italia di 125.000 euro lordi l'anno, quindi più o meno 4 volte il costo di un impiegato. E le retribuzioni dei dirigenti, dei manager, sono cresciute anche nei primi 8 mesi del 2009, lo ha riportato ODM Consulting, più 2,7% delle retribuzioni medie contro un più 1% degli operai e 2,4% dei quadri, è salita soprattutto la parte variabile, cioè quella legata ai risultati, del 9%. Ora, attenzione, non è vero che, come scrivono alcuni, manager non paghino mai. Ci sono stati 7.000 manager licenziati nei primi 8 mesi del 2009, un 40% in più rispetto all'anno prima, 5.000 nell'industria, 2.000 nel terziario. E poi lo scorso 25 novembre Confindustria e Federmanager hanno siglato il rinnovo contrattuale. Il minimo retributivo per un dirigente è di 55.000 euro lordi all'anno e 57.000 Milan nel 2010 e poi la retribuzione viene legata alla contrattazione tra le parti. Dottor Giorgio Ambrogioni, presidente di Federmanager, buonasera. Buonasera a lei. Allora, senza nessuna polemica e senza voler appunto cadere nei luoghi comuni, noi non pensiamo che i dipendenti pubblici siano tutti fannulloni, anzi, non pensiamo che le partite IVA siano necessariamente evasori, anzi, e né che gli imprenditori non investano abbastanza soldi nella loro impresa, e non pensiamo che tutti i manager siano tutelati. Però, quando vediamo che anche oggi il manager di Royal Bank of Scotland minacciano le dimissioni se non beccano i bonus, la banca è fallita, salvata dallo Stato ed è costata 55 miliardi di euro ai contribuenti britannici, e quando vediamo che in sostanza se un commercialista o un avvocato lavora male, lo studio fattura meno, chiude, la crisi la sente, un dipendente pubblico lavora male, difficile, quasi impossibile licenziarlo, ma piglia anche poco, 1.500-1.800 euro netti al mese. Il manager si ha la sensazione che abbia le tutele di un dipendente, perché cacciarlo è veramente difficile, ma non è che voglia cacciare, o se viene mandato via viene riempito poi di soldi per 2-3 anni in quanto a sborso complessivo, e però ha dei guadagni obiettivamente da partita IVA, da imprenditore, insomma non guadagna poco. È così? Siete un po' una casta? Assolutamente no. E figurarsi. Circa l'80% dei dirigenti che io rappresento provengono da famiglie del ceto medio, quindi è gente che si è affermata attraverso un processo selettivo basato sui risultati. Questo è nella stragrande maggioranza dei casi. Noi siamo gli unici lavoratori dipendenti che non hanno alcuna tutela reale del posto di lavoro. Noi possiamo essere licenziati in qualunque momento. E è vero, c'è un contratto che prevede una indennità economica che oggi mediamente è intorno ai 15-16 mensilità. Qual è il problema? Il problema è che se si viene espulsi dal ciclo produttivo se avendo più di 50 anni, la possibilità di trovare una nuova occupazione equivalente tende a zero in questo momento. Sì, questo vale anche per altre categorie. Essere espulsi dal lavoro a 50 anni non è... Ma per i dirigenti in modo particolare. Noi abbiamo fatto, dal 2004 abbiamo un contratto nazionale di lavoro che fissa dei trattamenti minimi di garanzia, che lei ha ricordato, e che se uno ha più di 6 anni di anzianità oggi sono 70.000 euro, lordi. Bene, tutto il resto è legato ai risultati. Quindi noi siamo una categoria che sposa i valori della meritocrazia, cioè in sostanza una parte importante della nostra retribuzione è legata ai risultati conseguiti. Quindi non ci sentiamo affatto una casta. Certo, c'è un problema molto serio di selezione e formazione di questa categoria. Noi non siamo un ordine, nel senso che non c'è l'esame di Stato. Noi veniamo alimentati come categoria da scelte fatte da altri, da un imprenditore, da un direttore delle risorse umane. Se l'imprenditore e il direttore delle risorse umane fanno una scelta avveduta, oculata, lungimirante, non abbiamo un bravo dirigente, altrimenti spesso prevalgono altri valori, altri riferimenti, altre qualità. E questo purtroppo è un vizio del paese e colpisce anche voi. Io vorrei però spostare leggermente l'attenzione su un altro fronte, fermo restando appunto che anche voi avete, lo ricordavo io, avete avuto numerosi licenziamenti, ma tra le cose che stanno saltando come paradigma dell'economia pre-crisi, oltre al fatto che il mercato funzioni sempre bene senza regole, che la finanza sia fatta da gente intelligente, avveduta, c'è anche la sensazione che quando il manager lavora in una grande struttura, lei citava il manager scelto da un imprenditore, e siamo d'accordo, quella è un'impresa, l'imprenditore mette un manager, se le cose non funzionano salta il manager. Certo. Io mi riferivo più a strutture grosse, qui il riferimento era all'Italia ma anche al resto d'Europa e all'America, cioè si ha la sensazione che nelle grandi corporate, come si chiamano in inglese, in realtà tutta questa capacità di espellere i manager non ci sia, cioè, tutto sommato, oppure se viene espulso viene ricoperto d'oro per 2-3 anni, cioè è un po' diverso quando tu fai 9.000 esuberi in un grande gruppo bancario e mandi a casa le persone che guadagnavano 2.000, 2.500, 3.000 euro netti al mese, e quando espelli un manager dandogli 24 mensilità se questo qua guadagnava 150-200 mila euro all'anno, capisci bene che la differenza si pone. Cioè non è che si stia generando una casta interna alle corporate tra i manager che si supportano a vicenda. Io non riesco mai a capire quando sbaglia un manager, cioè non riesco mai a capire se hai distrutto valore per una società che ha perso, non so, l'80% del suo valore in borsa, qualcuno dovrà pagare. Intanto o no? Dobbiamo distinguere, perché con questa parola magica manager oramai ci mettiamo dentro di tutto e il contrario di tutto. Questa qualifica non la si nega quasi più a nessuno. Io quando parlo penso a questa figura, penso a un dirigente di azienda, come prevede il codice civile, e quindi una persona che non è il rappresentante del capitale, non è l'amministratore delegato, è un dirigente intermedio che spesso paga scelte compiute da altri. Proprio il caso Alitalia dimostra chiaramente che oggi circa 150 dirigenti all'Italia sono a spasso per colpe non loro, e questo potrebbe fare un elenco interminabile di aziende dove dirigenti intermedi che vengono retribuiti con 120-130 mila euro lordi all'anno, quindi parliamo di 60 mila euro netti, quindi non parliamo di mega stipendi, pagano le conseguenze di scelte fatte dai numeri uno, i quali poi escono con mega liquidazioni. Ecco, perché io volevo citarle senza polemica, ma insomma Giancarlo Cimoli, 6 milioni, vado a memoria, di euro, di bonus, allora, di bonus per bene. Lasciare l'Italia così. Elio Catania, bene. 1,8 milioni, tutto legale, erano accordi presi, nessuno ha rubato niente, ci mancherebbe, però 1,8 milioni per lasciare Ferrovie dello Stato così. Ora, vorrei capire anche dove si pone la corrispondenza tra quello che hai fatto come manager e i risultati che hai ottenuto e la botta di milioni che ti becchi quando te ne vai. No? Beh, guardi, agli atti ci sono nostre posizioni ufficiali esterne, comunicati stampa, dove noi abbiamo contestato quanto è avvenuto in Alitalia e in certe altre aziende. Perché questo riverbera un'ombra negativa su tutta la categoria. Per l'opinione pubblica, in questo momento siamo tutti Cimoli. E non è così. In questo momento c'è in atto un'azione di delegittimazione del management in senso lato che è molto negativa. Il paese ha bisogno di queste figure professionali, cioè la competitività del nostro sistema passa anche attraverso queste figure e non possono essere demonizzate con polemiche di tipo generalistico. No, assolutamente no, è che stiamo affrontando tutte le categorie professionali del paese e quindi ci interessavano anche no, i manager. Guardi, io le posso dire che il nostro contratto, che lei ha ricordato, firmato il 25, enfatizza questa figura che mette a rischio una parte importante della propria retribuzione, e su questo non ci piove, l'abbiamo fatto dal 2004. Noi stiamo chiedendo alle imprese processi più selettivi dell'accesso alla dirigenza, perché in questi ultimi tempi molto spesso questa categoria non la si è negata a nessuno. Sì. E quindi c'è stato un abbassamento qualitativo del livello di questa categoria. Sì. Ecco, dobbiamo ritornare a una visione un po' più elitaria, in senso nobile del termine, di questa categoria. Allora, dopo l'informazione meteo, io vorrei che però lei mi rispondesse alla domanda che avevo fatto prima. Cioè, io non voglio fare tutta un'erba un fascio, e proprio per non fare tutta un'erba un fascio, mi sembra di notare che se nel mondo dell'industria il manager poi risponde perché se i fatturati fanno meno 40, poi il manager probabilmente salta, ci sia tutta una fascia d'ombra legata alle grandi gruppi operativi nei servizi, in cui è più difficile capire intanto il valore del singolo manager, e in cui si creano delle reti di appoggio, per cui non so, io non voglio parlare sempre delle banche, ma non ho visto questa ondata di licenziamenti tra i manager bancari, eppure qualche responsabilità ce l'avrà avuto qualcuno nel gestire le banche in questo modo. Lì, diciamo, tutto resta abbastanza fermo. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere il nostro approfondimento di apertura dedicato oggi alla categoria professionale dei manager, dei dirigenti d'azienda. Ripeto, così come abbiamo fatto con altre categorie professionali, i dipendenti pubblici non sono tutti fannulloni, anzi, molti si lamentano che ho sparato cifre troppo alte, ho detto possono guadagnare fino a 1.500-1.800, non ho detto che tutti guadagnino 1.500-1.800. Le partite IVA non sono tutte evasori e rischiano, gli imprenditori rischiano e capitalizzano, fuori e fuggiamo dai luoghi comuni e dagli slogan che servono solo alla politica o a certa politica. Stiamo sul concreto, I manager non sono tutti strapagati, le cifre medie ve le abbiamo dette, rispondo così a molti sms al 349-238-6666. A mio avviso, e qui la domanda al presidente di Federmanager Giorgio Ambrogioni, però anche voi un problema di un rischio casta, mi passi il termine, in alcune figure ce l'avete. Allora, possiamo dire che è più frequente questo rischio quando l'impresa non è un'azienda manifatturiera che sta sul mercato di dimensioni medio-piccole, quando è molto grande, quando è una corporate in cui ci sono migliaia di dipendenti o centinaia e non si capisce bene l'apporto, e allora lì, soprattutto ai livelli alti dei manager, ci si difende, si tiene bordone l'un con l'altro? Assolutamente sì, oh. È possibilissimo, ma le dico anche un'altra cosa e lo dichiaro in maniera molto molto forte. In alcune grandi aziende pubblico o ex pubblico, semipubbliche di questo nostro paese, si riaffaccia una tendenza che pensavamo fosse scomparsa di orientare le carriere dirigenziali da parte delle forze politiche e, cosa abbastanza nuova, anche di alcune centrali sindacali di tipo confederale. Mm. I vecchi boiardi di Stato? Beh, sa, una volta il boiardo di Stato, le vecchie partecipazioni statali, era la politica che metteva lì l'uomo di fiducia. Adesso abbiamo dei segnali in alcune grandi aziende di servizi pubblici dove praticamente alcune centrali sindacali stanno cercando di mettere lì in posizioni dirigenziali delle persone che poi possono controllare e portare avanti certi tipi di politiche. Ma chi nello specifico? Mi può fare i nomi? A me c'è in certe aziende, guardi, sul foglio qualche giorno fa, non vorrei fare nomi, ma... No, faccia, se è pubblico, diciamolo. Beh, per esempio in questo momento in alcune aziende, tipo le Poste, c'è una spinta della parte della CISL a, come dire, a mettere in certe posizioni dirigenziali persone che la pensano in un certo modo. Cioè che vengono dalla CISL, vabbè. Questo è un modo, secondo me, non felice, ecco, per, come dire, rispettare quelle che sono le caratteristiche fondanti di un bravo dirigente. Soltanto trasparenza, merito, professionalità e competenze. Questo deve essere la base di una scelta di un manager, non ci deve essere altro. Sì, ecco, una precisazione sulla storia dei boiardi di Stato, delle partecipazioni statali. Magari un giorno faremo anche una puntata, perché alcune sono state storie negative, Tirrenia, aspettiamo ancora il bando, Alitalia sicuramente, l'EFS, le Ferrovie dello Stato fino a un certo punto, le Poste fino a un certo punto, però attenzione, anche e attenzione, stavo appunto dicendo questo, che tra le migliori società di questo paese, non le migliori in assoluto, le sole, ma tra i migliori gruppi di questo paese ci sono Eni, Enel, Finmeccanica e tutte le loro controllate, Snam, Saipem, Alenia, Augusta, quello che volete voi, che sono state gestite da manager pubblici, quindi attenzione anche qua alle ideologie, e altre società gestite da manager privati hanno fatto invece piangere, e qui mi fermo. Mi dà una soluzione finale, visto che lei rappresenta, diciamo, voi non avete un ordine, ma insomma rappresenta 180.000 dirigenti di impresa o in servizio o in pensione, su cosa punterete per evitare che certi casi, certi atteggiamenti, certe caste poi in realtà danneggiano voi complessivamente dati? Beh, intanto noi abbiamo assunto l'impegno di denunciare comportamenti manageriali impropri, cosa che in passato si faceva decisamente poco. Uno. Due, noi insieme a Confindustria abbiamo preso l'impegno formale, anche attraverso il contratto, di tornare a valorizzare questa figura e quindi come dire, procedere con processi di selezione e formazione rispondente a quelle sono le esigenze di una figura dirigenziale adeguata a quello che è il momento. Terzo, la formazione. Noi siamo impegnati molto in processi formativi che come dire, facciano manutenzione delle competenze anche dal punto di vista deontologico ed etico, perché questo è fondamentale. Noi abbiamo bisogno di dirigenti che si assumano fino in fondo le loro responsabilità. In questi anni, se una colpa ce l'abbiamo, è che molto spesso abbiamo taciuto. Beh, mi piace la sua posizione, Ambrogioni, nel senso che un po' di autocritica e un po' di spinta anche verso una modifica dello stato delle cose, a mio avviso è sempre apprezzabile, anche come onestà intellettuale. Grazie anche per essersi sottoposto alle mie domande. Grazie al presidente di Federmanager, Giorgio Ambrogioni. vedete che poi in gira e rigira si riesce a ottenere anche delle risposte. Non tutte le categorie professionali rispondono come hanno fatto altri presidenti, non li cito perché è andata avanti la polemica via mail per una settimana, altri presidenti di ordini professionali che sono venuti i nostri ospiti la settimana scorsa, che invece no, sembrava che nulla fosse sbagliato, che nulla potesse essere modificato, anzi a momenti facevamo anche una colletta noi. Invece qui è emerso, mi sembra in maniera abbastanza chiara, che qualcosa vada modificato. Adesso la borsa e poi parleremo anche dell'operazione Kraft e poi del rapporto del Censis. Abbiate pazienza, lo dico al 349-238-6666, la chiusura di borsa più che buona, più 1,4% alla fine Milano, più 1,2% Parigi, lo 0,80% di rialzo Francoforte, lo 0,22% Londra, invariata, sta peggiorando adesso Wall Street che invece era positiva di quasi un punto percentuale, Nasdaq più 0,3%, euro oggi debole rispetto alla media delle ultime settimane, 1,48 euro sul dollaro. Come sempre con Radio Corriere sulle 24 ore l'approfondimento e il commento sulla giornata di borsa. Andrea Fontana, buonasera. Buonasera. Allora, il mercato è andato bene dopo il dato sulla disoccupazione americana che ricordiamo, pur vedendo un aumento di disoccupati molto molto basso, il dato migliore da quando è iniziata la crisi. Mi sembra che ad averne approfittato di più siano stati i titoli bancari? Sì, certamente, per la verità in Europa il settore bancario è stato quello che ha reagito meglio, anche se non è stato tra i migliori, perché farmaceutici, beni di consumo e utilities si sono mossi meglio di questo settore in generale in Europa. Certamente per quanto riguarda il listino italiano i bancari tra i migliori, va segnalato invece anche che i dati americani hanno avuto come reazione un netto rafforzamento del dollaro, tu ricordavi sotto 1,49 contro l'euro. In questo modo ne ha avuto delle conseguenze positive un titolo come Autogrill, molto esposto sugli Stati Uniti, che ha guadagnato più del 3%, è stato il migliore del FTSE MIB oggi. Questo appunto per quello che riguarda i migliori, tu citavi giustamente Intesa ma anche Autogrill che è vicina ai 9 euro per azione. Dopo le informazioni sul traffico invece vedremo anche altri titoli, vi cito i peggiori: Campari meno 2%, Pirelli meno 1,2%, Prismia meno 1% come Tenaris, Exor meno 0,90%, l'Automatica meno 0,6% come Bulgari, Mediaset mezzo punto percentuale di calo. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, si diceva degli altri titoli, Andrea Fontana, oltre a quelli che hanno ben performato come bancari e Autogrill, Campari meno 2%, e sì che siamo alla vigilia del weekend, quindi con lo spritz dovrebbe andare, no, tanto la battuta la faccio sempre, non riuscivo a fermarmi neanche oggi. Campari? Sì, per quanto riguarda Campari non ci sono motivi specifici, però va detto che nell'altalena dell'ultima settimana, con in mezzo a questione Dubai e poi rimbalzi di borsa, Campari, come peraltro altri titoli oggi penalizzati, la stessa Prismian, Pirelli, erano state tra quelle che avevano saputo tenere. Nell'ultima settimana aveva guadagnato l'1,6% e già da stamattina il titolo era stato penalizzato dagli investitori, ha un po' è stato anche un po' dimenticato, diciamo così, quindi ha amplificato le perdite nel momento in cui c'è stato il rimbalzo, si è preferito andare su altri settori, su altri titoli. Allora, titoli più sottili ma che preoccupano molto, novità su Eutelia? Ma non ci sono novità particolari, certamente ieri la società ha precisato che non sono in corso trattative con Interroute per la cessione di asset, dopo che l'amministratore delegato della stessa Interroute aveva sottolineato un interesse per gli asset di telecomunicazioni. Questa indicazione certo non ha fatto bene al titolo oggi, ma non ci sono stati diciamo così grossi motivi di movimento particolare per quanto riguarda il titolo delle TLC. Astaldi, settore costruzioni, meno 5,40%, il peggior titolo in assoluto, il migliore acque potabili più 20%, Mediterranee Acque più 14%, evidentemente il decreto Ronchi sulla privatizzazione parziale di chi gestisce le acque continua a piacere al mercato. Astaldi. Sì, per quanto riguarda Staldi hanno pesato le indiscrezioni di stampa in merito alla, allo studio di un rafforzamento della situazione patrimoniale da parte del gruppo romano delle costruzioni. Il settimanale Il Mondo oggi parlava di un possibile aumento tra i 150 e i 200 milioni. La società in una nota ha sottolineato come non sia stata presa alcuna decisione in merito a operazioni sul capitale, ma il mercato evidentemente ha interpretato questa nota come diciamo così, una conferma delle valutazioni in corso, e per questo ha fortemente penalizzato il mercato anche nel pomeriggio, cioè anche quando il titolo anche nel pomeriggio, cioè quando le borse si sono poi riprese. Grazie Andrea Fontana, buon fine settimana a te e a tutti i colleghi di Radio Cori sulle 24 ore. Grazie. Siamo vicini a Natale con questo freddo più che i Campari vin brulè. Allora fermiamo la deriva etilica, sto leggendo alcuni messaggi che la deriva etilica che ha preso il programma, la battuta su Campari era chiaramente una battutaccia, invece ci concentriamo, ma restiamo nel mondo diciamo dell'alimentare, chiamiamolo così, ci concentriamo su un'operazione che stante le cose è la più grossa operazione che ha a che fare con il mondo delle offerte pubbliche d'acquisto a livello europeo. Mi riferisco a Kraft su Cadbury. Nicola Dantebasi del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, già ne parlammo le settimane scorse, è partita l'offerta da 10 miliardi di sterline da parte di Kraft su Cadbury, e soprattutto vorrei sapere se veramente non ve ne saranno altre, perché si era anche ipotizzato, l'avevi scritto su Sole 24 Ore, un interesse di Ferrero da un lato e di altri gruppi, soprattutto Ferrero come possibile altro compratore. L'avevamo appunto anticipato sia sulle 24 ore che su Radio 24, e però come appunto anticipato e detto già a suo tempo, Kraft aveva già espresso l'intenzione di presentare la proposta agli azionisti, cosa che appunto ha fatto oggi, e a questo punto non, al momento non ci sono alternative, diciamo altre proposte alternative. Tutto si sta organizzando per vedere entro il 5 di gennaio quale sarà la risposta degli azionisti, e al mio parere così al momento gli elementi che abbiamo a disposizione dicono che non ci siano assolutamente altre proposte. Secondo me Nestlé sta studiando una eventuale diciamo rilancio, però non credo che che possa essere un rilancio effettivo e di cioè sopra i 10 miliardi. Secondo me tutti stanno a vedere come reagiranno, come risponderanno gli azionisti di Cadbury alla offerta diretta fatta da Kraft. Ecco, visto che tu conosci da sempre il settore alimentare a livello mondiale, non solo italiano, Cadbury è un gruppo che tra i marchi ha marchi che a noi dicono poco perché sono molto famosi in Gran Bretagna, comunque capitalizza 18 miliardi di sterline e fa 5 miliardi e mezzo di sterline, quindi quasi 7 miliardi di euro di giro d'affari, certo. 70.000 dipendenti. Il prezzo offerto in una battuta è alto, è un po' caro? Secondo me è giusto sul livello della quotazione di un mese fa. Oggi la quotazione è superiore a un mese fa, ma questo per effetto delle varie ipotesi che si sono fatte, Ferrero, Hershey e probabilmente anche Nestlé. Secondo me l'offerta fatta da Kraft tiene conto di quella che è la situazione oggi sul mercato. Diciamo che non ci sono altre grandi alternative, perché noi parliamo di altri potenziali acquirenti, ma in realtà a mio parere Ferrero, quando ha saputo che l'amministratore delegato di Cadbury ha detto che noi siamo favorevoli a un'eventuale alleanza con Hershey, a quel punto lì secondo me a Torino, Alba, hanno pensato che forse è il caso di ritirarsi. Di ritirarsi, che la partita fosse chiusa. Grazie Nicola Dantebasile. Diciotto e nove minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Come promesso, adesso ci occupiamo del 43esimo rapporto del Censis sulla situazione sociale del paese. 43 anni che il Censis fotografa la situazione sociale del paese. Ricordo che nel rapporto dell'anno scorso il titolo era l'Italia in marcia verso la seconda metamorfosi. In sostanza si ipotizzava che la crisi avrebbe avuto anche degli effetti tra virgolette positivi, avrebbe rimescolato, rivoluzionato, fatto compiere al paese una metamorfosi e quindi una crisi anche con qualche elemento positivo. Solo per correttezza, l'anno prima, nel 2007, il paese veniva descritto come una specie di mucilaggine sociale, un fenomeno diciamo di vischiosità in cui tutti si restavano un po' ingessati, la poltiglia sociale, come si chiama il rapporto di quest'anno. Il rapporto parla di una società replicante, una società che vive in apnea in attesa che la crisi finisca e quindi, usando anche il termine di Blade Runner, dei replicanti, un paese che in sostanza è rimasto in apnea in attesa ma non si è compiuta questa metamorfosi sociale. Il paese ha retto ma non è cambiato. Ne parliamo allora con il direttore del Censis, Giuseppe Roma. Buonasera. Buonasera anche a lei. Allora, dicevo, quest'anno voi dite siamo una società replicante che vive in apnea, replicante immagino si riferisca anche a Blade Runner come riferimento, che vive in apnea in attesa che la crisi finisca. Prima domanda, rispetto all'anno scorso, quando voi notavate come questa crisi poteva portare una metamorfosi positiva del paese, cioè una reazione positiva, essere anche un elemento di cambiamento, mi sembra che voi vi siate un po' ricreduti, cioè il paese non la sta trasformando in un'occasione di cambiamento, ma semplicemente sta replicando un modello classico italiano, ho capito bene? Sì, esattamente così. L'anno scorso dicevamo, eravamo anche un po' molto in controtendenza, che l'Italia avrebbe resistito proprio grazie alle sue qualità strutturali di essere una società che risparmia, di avere i risparmi accumulati, di aiutarsi, di avere solidarietà, e così è stato. Però pensavamo anche che le tante cose che invece in Italia non si riesce a risolvere, dal ruolo che hanno i giovani che sono sempre più emarginati e costretti a una vita direi depressiva, fino alle contraddizioni interne, al mezzogiorno, ai problemi della pubblica amministrazione, avevamo la speranza che proprio la crisi potesse dare una maggiore forza all'opinione pubblica e in generale alla dimensione collettiva rispetto agli interessi individuali e anche a questa forza della famiglia. Diciamo che nella nostra analisi di oggi vediamo che la prima parte ha funzionato, ma questa replica del modello, che di per sé non è sempre una cosa negativa, soprattutto se però a questo modello cambiamo i pezzi che non funzionano. Invece fino adesso abbiamo soltanto stretto la cinta e abbiamo resistito meglio di altri, ma siccome il prossimo anno la resistenza non basta più, perché da un lato non abbiamo la scusa della crisi perché invece si profila una certa ripresa e dall'altra non si può stare in apnea per troppo tempo, ma bisogna ritornare a respirare e quindi andare all'attacco della crisi, il punto centrale è un po' questo. L'anno prossimo saremo in grado di riprendere un cammino che ormai da troppo tempo era un po' stanco, e quindi questa replica di un modello è una replica di un modello stanco. Allora, per come ho capito io, voi dite c'è una parte positiva, cioè il paese comunque, come voi vi attendevate l'anno scorso, ha retto e quindi tutto sommato l'apnea vuole anche dire che comunque tu non stai affogando ma stai aspettando, e ha retto e ha tenuto anche grazie ai risparmi, a una struttura sociale molto basata ancora sulla famiglia e anche sul localismo. Però non c'è stato quello scatto, quella voglia di dire cambiamo le cose che non vanno, che di solito le crisi, come nella vita anche umana, possono portare, no? Uno dice, a questo punto approfitto della crisi per modificare alcune cose che non funzionano. Lei citava i giovani, io aggiungo anche le liberalizzazioni, cioè alcuni settori ancora assolutamente protetti, il mezzogiorno, la pubblica amministrazione, e un paese, come fotografo anche altri istituti, dottor Roma, bloccato in quello che è l'ascensore sociale. E cioè il figlio, diciamo, quella che è la carriera del figlio è sempre più legata a quello che è il ruolo e la professione del padre, oltre che mi sembra anche un principio del merito, visto che lei parlava dei giovani, che non è entrato, diciamo, come dimensione, come variabile discriminante. Sì, tenuto conto che anche su questo purtroppo si sta facendo più retorica che fatti, come si dice, nel senso che il famoso ascensore sociale, la mobilità e tutto si basa anche su una convinzione collettiva che il prossimo modello non è che sarà un modello meno individualista o più collettivista, sarà più legato alle grandi strategie e non a quelle di breve termine in cui siamo bravissimi. Io questo non cambierà anche laddove riuscissimo a sbloccare. Il prossimo modello sarà un modello, il modello del globale, cioè in cui vale veramente la conoscenza, ma non come bandierina generica che finisce per essere soltanto diamo più soldi all'università, diamo più soldi alla ricerca. No, la convinzione collettiva che oggi bisogna saperne di più, la convinzione anche di quei giovani che poi vengono invitati ad andare all'estero, che all'estero si studia di più e che quindi non è che il merito è un portato, come dire, esterno. Siccome la società deve funzionare meglio, deve valere anche il principio che per funzionare meglio gli insegnanti devono essere più bravi, gli impiegati devono essere più bravi, i ricercatori devono essere più bravi. Questo è il punto fondamentale che io non sento nell'opinionismo, che è un'altra cosa che abbiamo detto in questo rapporto, che invece finisce per trattare tutte le cose, insomma, attorno all'opinione del padre che scrive al figlio di andare a studiare da un'altra parte, cosa che ormai fanno decine di migliaia di giovani autonomamente, non vanno all'università che magari è diretta da quel padre. Cioè il punto essenziale è che noi dobbiamo anche diventare più coerenti, è la dignità di noi stessi che dobbiamo ritrovare da un punto di vista strettamente sociologico, perché sennò finiremo per essere quelli del dovrebbe, il mondo dovrebbe andare così, ma perché il mondo vada così? Oggi noi dobbiamo fare delle cose, non è che noi non abbiamo futuro, il futuro non è uno spazio vuoto verso cui andare, è uno spazio da riempire oggi, dicendo e agendo in maniera tale che se l'università non funziona, non lo possono dire i docenti, perché se i professori universitari dicono andate all'estero, è meglio che dovrebbero, per dignità personale, dimettersi e andare a fare un altro mestiere. Chiarissimo il suo punto, cioè il riferimento era chiaramente alla lettera di Pierluigi Celli, direttore della LUISS, abbiamo avuto ospite in settimana che invitava il figlio ad andare all'estero dopo gli studi. Chiarissimo il suo punto, le dice occorre anche coerenza, non basta dire bisognerebbe, occorrerebbe, occorre anche dimostrarlo coi fatti, un po' come i genitori devono essere genitori, se mi passa il termine, con l'esempio oltre che con la predica o il predicozzo. Dopo le informazioni sul traffico vorrei capire un altro aspetto, perché voi dite appunto rispetto all'anno scorso ci siamo un po', stiamo replicando il modello, il paesone italiano, che tutto sommato sembra aver funzionato, però se un anno fa ritenevamo non, nulla sarà più come prima e quindi c'era anche un'idea di disegnare un nuovo futuro, adesso ci siamo un po' rinchiusi, siamo, la frase è siamo sempre gli stessi, ci appiattisce un po' alla contingenza. C'è un altro aspetto che mi interessa però, è la dimensione collettiva, perché questi processi non si possono fare solo individualmente, e poi anche le disparità economiche che voi avete fotografato, lo fa l'Istat a livello statistico, insomma che solo il 2% dei contribuenti dichiari di guadagnare sopra i 70.000 euro lordi l'anno è una cosa che obiettivamente fa cascare le braccia, che la metà degli italiani dichiari di guadagnare meno di 15.000 euro lordi l'anno, anche qui se fosse vero saremmo di fronte a un paese che non è quello che vediamo tutti i giorni. La libertà non è stare sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. E così cantava Giorgio Gaber sulla libertà. E dottor Roma, ci è venuto in mente quando lei faceva riferimento, attenzione, il futuro non è uno spazio vuoto, la libertà non è uno spazio vuoto, e anche l'appello che voi fate in questo rapporto del Censis sulla necessità di partecipazione. Le è piaciuto il riferimento di Gaber? Molto, io amo moltissimo, specialmente questa canzone, che peraltro mi ricorda quando è stata fatta, perché io c'ero. Vabbè. E qui ci confessa anche la sua età. Andiamo avanti con il rapporto Censis. Si diceva, attenzione, un paese che non ha più l'idea di una metamorfosi, si ripiega sul modello del paesone italiano, tutto sommato funziona, però attenzione che ci si appiattisce sulla contingenza e c'è il rischio che se non cambiano le cose nel 2010 un po' di stanchezza si faccia sentire. L'altro aspetto su cui voi puntate comunque è un paese che deve recuperare una dimensione collettiva, e qui sono dolori, perché da quello che emerge dal vostro rapporto c'è un paese in cui sostanzialmente la crisi si è affrontata non più come metamorfosi collettiva ma come risposta individuale, quindi io penso per me e tu pensa per te. Lo dico questo perché i dati sulle dichiarazioni dei redditi che citavo prima, insomma, sono fotografano un paese spaccato, perché insomma sappiamo che voi dite un terzo delle famiglie arriva a stento a fine mese, più di una famiglia su quattro. Allo stesso tempo però ci sono solo il 2% di italiani che dichiarano redditi sopra i 70.000 euro lordi l'anno, un contribuente su due dichiara meno di 15.000 euro lordi l'anno, vi risparmio le categorie dei lavoratori autonomi da questo punto di vista. Insomma, dottor Roma, qui c'è il rischio che veramente ognuno vada per sé, altro che metamorfosi collettiva. Certo, questo è il rischio più forte, anche perché mancano le strutture di mediazione e noi diciamo gli interessi sono agiti direttamente, si è tutta impresa diretta, dal piccolo interesse corporativo, la difesa di qualche vantaggio, fino ai anche i grandi interessi, quindi anche le strutture di rappresentanza oggi rischiano di essere meno forti. E il discorso dell'interesse generale a volte sembra una cosa retorica, ma un po' ci vuole, cioè se non convergiamo attorno degli obiettivi comuni, per esempio abbiamo detto della scuola, se la scuola non ha nella coscienza collettiva e quindi nell'opinione collettiva un significato positivo, sarà difficile poterla riformare. Allora tutto viene in presa diretta e quindi questa presa diretta degli interessi costituiti finisce anche per abbassare la guardia su altri discorsi. Lei diceva i contribuenti, beh, solo dalle rilevazioni che fa la guardia, i controlli della Guardia di Finanza negli ultimi 9 mesi l'IVA evasa di quei controlli è aumentata del 36%, allora anche questo è un modo per resistere alla crisi, però possiamo permetterci un paese dove ci sia l'evasione fiscale, magari al posto della svalutazione competitiva abbiamo messo l'evasione fiscale? Questo è un paese che non ha capito che la globalizzazione si fa magari abbassando le tasse, ma comunque quelle che ci sono vanno pagate. Questa dimensione collettiva non è un aspetto, diciamo, puramente comunitario, non è un aspetto solidaristico, è proprio funzionale alle società moderne. C'è un aspetto competitivo. Competitivo in società moderne dove è chiaro che il mercato e la democrazia sono fondati sulla scelta della singola persona, ma come abbiamo detto che il mercato deve essere regolato, se no diventa una giungla, e la stessa cosa vale per la politica e la democrazia. Quello che lo regola non sono solo le leggi, le istituzioni, ma è anche il sentire comune. Bisogna saper stare a questo mondo. Questo mondo implica delle responsabilità nuove e il singolo non può cercare sempre comunque di allungare la coperta dalla sua parte, perché se scopre un'altra parte, prima o poi questa gli viene contro. E qui veniamo all'ultima domanda che ho per lei, ossia il ruolo di chi questi interessi collettivi dovrebbe organizzarli e fare capire agli interessi individuali o di parte o corporativi che non esistono solo loro, che bisogna tenere assieme un paese. E mi riferisco chiaramente alla politica, senza nessuna retorica, però è chiaro che se la nostra risposta è beh io penso per me, e non capendo che il pensare in maniera anche collettiva non è solo un atto, così appunto come diceva lei, corretto in una democrazia, è un modo per competere meglio in una società globalizzata che si chiama Cina, India, Brasile, paesi che insomma ragionano in maniera più che collettiva, soprattutto i primi due, e allora attenzione, perché rischiamo poi di farci tutti del male se si continua a pensare appunto che alla crisi si possa rispondere evadendo di più l'IVA o l'IRPEF, anche perché dottor Roma, questo lo possono fare solo alcuni, cioè forse una risposta per tutti potrebbe essere anche così uno strumento collettivo, ma è uno strumento solo di alcune categorie. La politica che cosa si chiede, o voi ritenete che questo debba essere il soggetto che pone al paese un obiettivo collettivo? E invece non notate come la politica stia inseguendo continuamente, a maggior ragione con la crisi, interessi individuali, corporativi, geografici, piuttosto che, diciamo, di ceto sociale? Certo, la politica segna un po' in questo momento una iperpresenza e iperpresenzialista, ovunque c'è sempre politica, ogni sera ce l'abbiamo nei telegiornali eccetera, però segna un po' un vuoto proprio di riferimenti. Noi diciamo in questo rapporto che il vuoto della politica è coperto dall'opinionismo, cioè ormai non si fa più opinione sui fatti, ma i fatti fanno ma le opinioni fanno i fatti, e quindi la politica, che diventa un continuo colloquio fra gli addetti ai lavori e che esclude il coinvolgimento, la partecipazione di cui Gaber ci dava quella sollecitazione in precedenza, è evidente che una politica in questa fase aiuta poco. Noi non dobbiamo chiedere alla politica più soldi per le famiglie, più soldi per i cassi integrati, ma questo deve entrare in una logica di carattere più generale, più forza al sistema Italia. La politica dovrebbe consentire a tutti noi di vivere meglio, di operare meglio, allora potremmo essere anche più responsabili e pagare anche, non dico con piacere, ma con una maggiore attenzione le tasse. Ma quando la politica invece da una parte ci tenta di dare un contentino ora a questa, ora a quella categoria, dall'altra blocca i processi di liberazione di energie, diciamo così, più che di liberalizzazione generale. Cioè, quindi in quel caso non è una politica che si contraddice. Io devo veramente chiudere, grazie al direttore generale del Censis Giuseppe Roma, grazie a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per l'assistenza anche questa settimana in redazione, a Carmelo Lauricella per l'assistenza in regia, da Sebastiano Barisoni l'auguro di un buon fine settimana e di un buon ponte per chi lo farà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.